La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, in questo lunedì 11 di aprile, sono le 16.30 primi 26 secondi, siamo in diretta dagli studi di Milano della radio, Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto in diretta o in podcast. Vi dico subito l'argomento della puntata per consentirvi di intervenire all'800240024, per le opinioni lo sapete, il numero è 349-238-6666 per i vostri sms. Di cosa parliamo oggi? Dell'ennesima, perché scopriremo che in realtà non è la prima volta, non lo è affatto, dell'ennesima bacchettata che viene all'Italia da parte del Consiglio d'Europa. E la materia sulla quale stamattina è arrivata la bacchettata è la legge 194 del 78, quella sull'interruzione volontaria di gravidanza. Sono anni, era già capitato, ve lo ricorderò subito, nel 2014 da parte sempre del Consiglio d'Europa, sono anni che il Consiglio d'Europa in maniera ricorrente sottolinea che la legge sull'interruzione volontaria di gravidanza, la 194 in Italia, col passare del tempo è viziata da una contraddizione sempre più inammissibile a giudizio del Consiglio d'Europa. La legge, lo sapete, prevede dei casi per l'interruzione volontaria della gravidanza e prevede l'articolo 9, e quindi è un diritto che viene offerto alle donne del nostro paese, e l'articolo 9 prevede il diritto all'obiezione di coscienza però per il personale medico rispetto alla praticare le interruzioni di gravidanza. E il contrasto non risolto, non contemperato tra questi due contrapposti diritti, a giudizio del Consiglio d'Europa, col passare del tempo è diventato sempre più insanabile, tanto da mettere a rischio l'esercizio reale del diritto garantito alle donne nei casi previsti per l'interruzione volontaria e nei tempi previsti dalla legge per l'interruzione volontaria di gravidanza. Questo tipo di ammonimento, per così dire, che oggi è stato ribadito nei confronti dell'Italia accogliendo un ricorso che alla Corte del Consiglio d'Europa era stato presentato dalla CGIL in Italia, e il ricorso era nella fattispecie incardinato sostenendo che da questo contrasto tra i due diritti, il diritto generale garantito dalla legge 194 del diritto all'obiezione di coscienza per il personale a praticarla davvero, il ricorso argomentava che ne deriva una discriminazione per i diritti del personale medico, del personale medico sanitario, quindi era per così dire su una parte del problema relativa al crescere delle percentuali di adesione del personale che dichiara obiezione di coscienza nel nostro paese, e relativo al fatto cioè che coloro che praticano a quel punto l'interruzione di gravidanza finiscono per dover concentrare sempre di più e solo in questo la propria attività, e vengono poi alla fine discriminati anche nella carriera oltre che nel tipo di sviluppo della loro attività medica. Però questa stessa obiezione in realtà in quel caso due anni fa, nel 2014, estesa non solo ai diritti dei lavoratori della sanità e dei medici, ma all'esercizio del diritto da parte delle donne, era venuta in termini generali esattamente due anni fa. E due anni fa il ministro Lorenzini, che è ancora ministro della salute, rispose più o meno esattamente come oggi. All'epoca lo fece nei giorni successivi in maniera più sistematica, dicendo che, come ha già detto oggi in agenzia, i rilievi del Consiglio d'Europa sono in realtà datati, si riferiscono a dati vecchi. Due anni fa, nel 2014, il ministro della salute rispose dicendo che in Italia in realtà chi argomenta, e ci arriveremo, soffermandosi sulle percentuali in cui l'obiezione di coscienza è troppo elevata, molto elevata in alcune regioni, dimentica che il dato nazionale in evoluzione nel tempo è quello a cui bisogna guardare, e nell'evoluzione temporale siamo passati in Italia da 3,3 aborti a settimana nel 1983 praticamente alla metà, a 1,7, e anno dopo anno diminuiscono le interruzioni di gravidanza, e quindi come media nazionale rispetto al totale del personale medico che fa obiezione, questa lesione del diritto alle donne non esisteva, e questa è la tesi del ministro Lorenzin, ed è la tesi naturalmente, perché qui poi si scatena un dibattito dibattito che diventa politico in Italia molto vivo da sempre, perché in Italia abbiamo una fortissima tradizione, bisogna riconoscerlo, non c'è niente di male, di astensionismo da parte dei medici, che fa esplicitamente riferimento a una posizione esplicitamente cattolica. Dall'altra parte il rispetto del diritto all'interruzione di gravidanza è un tema classicamente introdotto nell'agenda nazionale nei decenni da, tra virgolette, movimenti laici, e quindi su questo diventa immediatamente poi una questione non oggettiva del riconoscimento dei diritti, ma diventa poi una crociata contrapposta, per così dire, si vede anche dalle dichiarazioni questa mattina. Allora, noi ci vogliamo porre il problema oggi in termini concreti per capire, visto che di fatto in questi anni noi abbiamo avuto numerosi casi in cui, a mio giudizio, posso sbagliare, ma la mia opinione è che davvero il diritto sia delle donne che dei lavoratori e dei medici della sanità fosse poco rispettato. Perché? Perché noi abbiamo delle parti d'Italia in cui la percentuale di personale medico che dichiara e pratica l'astensione supera il 90%. Ci sono parti d'Italia, è successo 2 anni fa a Iesi, è successo 2 anni fa, 1 anno e mezzo fa a Genova e così via, in cui addirittura intere aziende ospedaliere si trovavano nella condizione di non avere nemmeno un ginecologo o comunque uno specialista che potesse praticare l'interruzione volontaria di gravidanza. Allora la domanda diventa: ma le aziende ospedaliere italiane hanno un protocollo standard da seguire per poter garantire comunque l'effettività del diritto? In teoria sembra di sì, e molte di loro, al crescere della percentuale di obiettori, hanno iniziato infatti a emanare bandi di ore a disposizione per la copertura del servizio. Capite che non è esattamente la stessa cosa di avere un professionista standard in pianta organica che consente l'esercizio del diritto, e intorno a questo poi si sono scatenate anche impugnative e così via, eccetera eccetera. Ci sono delle regioni, la regione Lazio con il governatore Zingaretti, che al fine di contenere una percentuale che diventava sempre più elevata di personale medico obiettore, ha iniziato a essere più precisa nell'interpretazione. Sapete che fanno capo alle regioni, no? Il Servizio Sanitario Nazionale ha dato delle interpretazioni che altre regioni non praticano, per la quale nel Lazio anche gli obiettori non possono comunque sottrarsi all'iter preventivo all'interruzione di gravidanza, cioè all'emissione dei certificati che testimoniano l'incontro con la paziente, la sua volontà e così via, cosa che invece in altre parti d'Italia viene regolarmente fatta, astraendosi da tutte le prassi che hanno a che vedere con l'interruzione di gravidanza da parte del personale obiettore, che dice: non ne voglio sapere nulla, io sono un obiettore. Quindi diciamo che, se andiamo a vedere in Italia, appare una situazione un po' a macchia di leopardo. Questa almeno è l'impressione mia come osservatore, e come osservatore io dico che in alcune parti d'Italia, nel sud, in Calabria, Sicilia e non solo, perché poi anche la percentuale in Lombardia è molto elevata, stiamo parlando di 2/3 del personale obiettore in Lombardia, vi ho fatto già il caso di Genova, ci sono delle realtà nelle quali, a mio giudizio da osservatore, il problema del non equilibrio nel contemperare i due diritti della legge 194 resta. Ecco, allora tentiamo di capire, voi telefonate per dirci all'800240024 qual è la vostra opinione, se è un finto problema o se è un problema reale, perché a vostro giudizio, per quello che conoscete, naturalmente fatelo, anche soprattutto se lavorate in un'azienda ospedaliera, fatelo se ci siete, ohimè, amaramente dovuti passare per cose di questo genere. Ma intanto noi abbiamo due ospiti a cui chiederlo, perché abbiamo da una parte, in rappresentanza di chi ha depositato l'esposto che provoca il riabbuffo a distanza di anni sullo stesso tema del Consiglio d'Europa, Rossana Dettori, che è segretaria generale della funzione pubblica della CGIL. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Grazie a voi. E poi dall'altra parte, vi ho già detto della reazione alla Lorenzin, però come a me interessa anche la posizione del PD in quanto tale, insomma il pilastro fondamentale della maggioranza di governo, perché questo è un tema classico in cui da una parte c'è, l'ho già detto nel dibattito pubblico, sì, una fortissima presa di posizione dei medici cattolici, astensionisti eccetera, e dall'altra c'è però un mondo laico intorno alla 194 e alla sua storia. Quindi abbiamo con noi Micaela Campana, che è deputata parlamentare del PD ed è anche responsabile nazionale welfare e diritti del partito. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Buon pomeriggio a tutti voi. Posso chiedere innanzitutto, Campana, a lei, come giudica il reiterato richiamo che su questo tema viene? Cioè, è vero, non c'è problema davvero in Italia secondo lei su questo? No, in realtà il problema, cioè io ho sentito solo le ultime sue, diciamo, osservazioni numeriche. Noi abbiamo nel nostro paese posti in cui si può utilizzare dentro il servizio nazionale l'IVG e quindi l'interruzione volontaria di gravidanza, che sono classificate circa sul 60%, 300 e passa strutture su 600. Il problema riguarda soprattutto però quando noi andiamo a guardare i numeri dei medici che non fanno obiezione di coscienza, e quelli sono 1400 e qualcosa, e quindi la percentuale scende, diciamo, molto basso, sul 30%. L'altro grande tema è quello che lei diceva all'inizio, sia una non uniformità dell'accesso a questo diritto sul territorio nazionale. Ci sono regioni, io ho sentito solo l'ultimo pezzo del Lazio, ma se penso alla Basilicata o al Molise, dove addirittura la percentuale di obiezione di coscienza arriva a più del 90% dei medici presenti, e queste ovviamente sono presenti soprattutto nelle regioni del centro-sud, penso alla Sicilia dove è all'80%, la Puglia all'86%, significa che un servizio che da un punto di vista costituzionale è un servizio nazionale sanitario di universale, quindi che dovrebbe avere un accesso universale a prescindere dalla regione dove tu sei residente, dove sei nato, questo evidentemente lede un diritto fondamentale che è quello della donna, ma io lo dico anche che è un diritto della coppia, perché oggi sull'interruzione volontaria di gravidanza è evidente che nasce anche da un diritto esteso, non soltanto della donna da una parte, ma anche della coppia. Quindi io personalmente penso che il Ministero della Salute debba continuare a monitorare in maniera più puntuale, a verificare quello che il Consiglio d'Europa ci dice. È effettivamente un dato che in Europa ci porta indietro rispetto al tema dell'accesso ai diritti, e io sono convinta che questa legislatura, che è una legislatura che sul tema dei diritti, io sono anche la relatrice della legge sulle unioni civili, adesso in questo preciso momento sono fuori dalla porta della Commissione Giustizia dove si stanno audendo le associazioni per la riforma delle adozioni, sono convinta che il tempo di mettere mano su riforme, su testi che riguardano l'accesso dei diritti nel nostro paese, in modo tale che il paese non sia più con accanto la parola discriminazione, sia assolutamente necessario. Bisogna fare di più. Io penso che il tema esiste, che ci sia un problema, perché questi sono numeri evidentemente che fanno una fotografia di un problema nel nostro paese. Bisogna fare sicuramente di più. Allora, io ricordo che ci sono situazioni, per esempio nel Lazio, su un numero totale di 391 ginecologi strutturati nei reparti, sono 33 non obiettori, eseguono l'interruzione di gravidanza volontaria, cioè neanche uno su 10. Stiamo parlando, ci sono alcune aree d'Italia in cui, così in Sardegna, per esempio, gli ospedali civili di Bosa e Ozieri sono al 97%, i medici specializzati sono obiettori, e così via. Allora, faccio due esempi di paesi per vedere se ci possono dare una qualche indicazione, e lo chiedo ancora una volta a Michela Campana, poi passiamo a Rossana Dettori. Se andiamo a vedere gli altri paesi europei come vengono contemperati questi due diritti, cioè il diritto generale della legge 194 all'interruzione volontaria di gravidanza e il diritto all'obiezione di coscienza, per esempio in Francia tutti gli ospedali, tutti senza eccezione, tutti sono tenuti al dovere di erogare il servizio di IVG, cioè nell'organizzazione dell'azienda ospedaliera non si può configurare neanche la lontana remota ipotesi che tutti si possano astenere, il che non significa all'interno dell'azienda ospedaliera, in ogni ospedale, mentre da noi c'è una questione invece di bacino territoriale di azienda ospedaliera, lì è in ogni sito ospedaliero, deve essere così. In Svezia addirittura, ma questo io lo cito come estremo opposto, l'obiezione di coscienza non esiste, cioè se vuoi fare il ginecologo nella struttura pubblica sanitaria devi accettare l'idea di praticare l'interruzione volontaria di gravidanza, qualunque sia la tua opinione in materia. Naturalmente io penso che l'esempio svedese sia impossibile, però chiedo a Michela Campana: il riequilibrio territoriale non passa attraverso prassi su cui bisogna intervenire legislativamente, devono essere d'accordo anche le regioni, vista la competenza sanitaria, nelle quali ogni sito ospedaliero, quindi non bacino geografico, perché questo ci porta a parte l'Italia in cui non c'è nessuno che la pratica, debba prevedere non i gettonisti, cioè non le ore libere come si fa adesso, ma un numero standard minimo rispetto al bacino da servire di personale non obiettore? Micaela? Noi dobbiamo intervenire, come lei ha già anticipato, non soltanto sul tema delle strutture territoriali, questo è evidente, non soltanto sui bacini, quelli più larghi, ma anche su un altro diritto che spesso quando si parla di obiezione di coscienza si dimentica, che è quello anche dei medici che non fanno obiezione di coscienza, che da tempo lamentano il fatto di avere degli svantaggi sulla carriera professionale che hanno in capo le loro aziende sanitarie. Quindi, tant'è vero, sì, che le faccio un esempio per i nostri ascoltatori, lei lo conosce benissimo. Un anno e mezzo fa a Genova il professor Remondini, proprio uno di coloro che non praticavano e non praticano l'interruzione, per polemica contro il ministero disse: io rassegno le mie dimissioni perché sono oramai costretto a non poter fare altro, visto che sono rimasto l'unico che lo fa qui, faccio solamente questo mi danneggia nella carriera e soprattutto io non voglio passare, visto che sono esposto al pubblico ludibrio oramai come Erode con tanto di cartelli fuori l'ospedale. Questo per dire, ci sono anche problemi di questo tipo. Esatto, no, per questo dicevo, bisognerebbe, i medici che non praticano l'obiezione di coscienza lamentano da tempo questa, diciamo, questi svantaggi diretti e indiretti sulla propria accesso, diciamo, alla professione, e che però, diciamo, per quanto riguarda il diritto delle donne rimane sempre il tema principale, perché poi se tu lo configuri soltanto con la qualifica e quindi riguardando soltanto il tema delle ore e non attraverso un riequilibrio, diciamo, dentro le aziende ospedaliere, è evidente che tu crei dei disagi profondamente soprattutto alle donne e in particolare alle donne immigrate. Io prima di fare il parlamentare ho fatto l'amministratore pubblico per tanti anni in questa città, cioè la città di Roma, e ci sono delle esperienze di eccellenza alcune. Penso ad esempio al Policlinico Casilino, che l'altro giorno ha ricevuto un premio proprio per la gestione dell'accesso dei servizi territoriali sanitari alle donne immigrate, tra cui quello dell'interruzione e altre volontaria di gravidanza. Ed altre invece dove invece questo tema è un tema praticamente sconosciuto, penso ad altre parti, diciamo, della città e del Lazio. Senta, allora, le faccio un'ultima domanda. Lei reputa ragionevole calendario parlamentare alla mano e atmosfera politica nelle componenti del governo immaginare e dirci che si potrà intervenire su questo, oppure, siccome sappiamo che poi diventa una temperie esplosiva dal punto di vista politico, perché invece la questione in sé si finisce per essere la solita crociata vita sì vita no, è improbabile aspettarselo? Ma guardi, io sono convinta, il Partito Democratico in questi negli ultimi mesi ha approcciato alla questione dei diritti in maniera molto coraggiosa, a mio avviso. Le unioni civili tra qualche settimana potranno essere finalmente legge in questo Quindi, paese. Vediamo, ma lei dice non è escluso, perché voi siete su questo, cioè, le unioni civili insegnano che, insomma, c'è un ritorno di vediamo, io me lo auguro. Intanto la ringrazio, torniamo tra un minuto dopo l'interruzione sul traffico con Rossana Dettori, che appunto, siccome è la funzione pubblica della CGIL che ha depositato il ricorso, tentiamo di capire meglio in cosa sono discriminati anche coloro che praticano l'interruzione volontaria di gravidanza. Tra un minuto. La versione di Oscar. Allora, tra gli sms, come prevedevo, incandescente, i messaggi in cui molti si dolgono che non sia stata mia madre ad abortire sono numerosi. Questo mi complimento con chi li ha mandati, perché testimonia, come si vede, che su questi argomenti riusciamo sempre a discutere senza naturalmente perdere il senso della misura. C'è anche uno che dice che io sono bugiardo, devono cacciarmi, non devo osare toccare l'argomento perché quelli sono infanticidi e così via. D'accordo, io devo dire che sono lontano anni luce da questa violenza programmatica verbale. Pensate come volete, potete girare radio se non vi volete ascoltare. E un paese che non sa parlare di 194 senza arrivare a questi toni in 5 secondi, per me è un paese che proprio non ha il senso di come si fanno i dibattiti pubblici su questo. Il che non significa mancare di rispetto a chiunque abbia convinzione che la vita debba venire prima di qualunque diritto della donna in materia. Perché io ho rispetto per tutti. Però non auguro aborti a nessuno degli interlocutori. Peccato che purtroppo in Italia su questo abbiamo una deriva storica, come devo dirvi. Siete convinti che qui ci siano chissà quali interessi dietro questo? No, contemperare i diritti è la soluzione equilibrata di un paese civile, moderno, libero. Capite? Libero. Libero significa che le convinzioni vanno contemperate, non esistono verità rivelate su questo che impediscano, altrimenti tutti i paesi che hanno leggi sull'interruzione di gravidanza, cosa facciamo? Gli mettiamo all'indice, mettiamo i roghi? Ecco, però una parte di voi sta rispondendo così. Allora, sentiamo da Rossana Dettori. Da dove nasce, e spieghi ai nostri ascoltatori, la discriminazione verso i medici che praticano l'interruzione di volontaria gravidanza? In cosa si configura in realtà? Allora, vabbè, come diceva lei, questo è un paese assai strano che non applica le leggi che vengono fatte, ma che sono state anche sottoposte al referendum e che il paese ha chiesto che ci fosse, quindi la 194 spero che non sia in discussione. Cosa succede nell'applicazione di questa legge o nella non applicazione? A parte il diritto negato alle donne della libera scelta, perché appunto in molti luoghi non possono scegliere, perché i medici sono nel 90% obiettori, ma per quel 10% di medici che in uno stato laico decidono di mettere in pratica una legge, quindi di garantire alle donne la libertà di scelta, c'è una penalizzazione indescrivibile, perché a questi medici viene negato di fare carriera, vengono costretti, perché non hanno la possibilità di avere sostituzioni, certo, a lavorare esclusivamente nei reparti dove si tratta l'interruzione di gravidanza, con una perdita di capacità professionale, della loro capacità professionale, perché hanno scelto di fare i medici, di fare anche partorire le donne, non certo, soltanto di era proprio il caso del professor Remondini che citavo prima, esattamente, che diceva che non è che posso essere obbligato a fare solo questo perché non c'è... Perché non poi alla fine quei pochi che abbiamo sono costretti a fare obiezione, perché sennò sono... Esatto, bloccati nella loro carriera. Tagliati fuori. E diciamo pure che abbiamo avuto esempi di regioni in cui questo è stato il criterio anche per le promozioni e l'assegnazione a responsabilità più elevata, Lombardia è accaduto, e come, un fatto oggettivo. Sono davvero pochi i ginecologi che hanno fatto la scelta della non obiezione, gli ostetrici, ma anche il personale sanitario come l'ostetrica, a cui poi sono garantiti corsi di carriera, non arrivano mai in alto. Allora, vedremo se a questo punto, dopo 2 anni, questa volta si farà qualcosa. Io purtroppo temo di no, visto che non è la prima volta. Sentiamo Giuliano da Modena, che mi segnalano è un medico. Giuliano, prego. Sì, buonasera. Buonasera. Io semplicemente dico la mia, da piccolo operatore del settore, sono un medico di famiglia. Io ritengo assolutamente fuori dal mondo che in Italia, come sempre succede in tantissime altre cose, uno possa essere dipendente di un servizio sanitario nazionale, dover garantire un servizio e poi tranquillamente non garantirlo. Lo so, questo è un compromesso su cui è nato quell'articolo 9. Io ho fatto l'esempio della Svezia, ma non ci arriveremo mai, perché qui basta toccare il tema e ti insultano, come mi è puntualmente arrivato oggi. Sentiamo Remo da Bologna, come la pensa? Remo, prego. Sì, buonasera. Guardi, io la pensavo esattamente come il medico di prima. Io penso che lo Stato è lo Stato di tutti, cattolici, non cattolici, buddisti, non buddisti, quello che vuole. Però a questo punto, se è lo Stato di tutti, ci sono le leggi che devono valere per tutti. Cioè il medico ha il diritto di essere obiettore, ma dovrebbe avere, per me, anche l'accortezza di dimettersi dalla struttura pubblica. Nessuno gli impedisce al medico di fare, ecco, voi dite l'obiezione, le dimissioni. Questo io credo semplicemente che basti una norma, che io sono realista, cioè in Italia questo problema lo supereremo, forse, semmai lo supereremo tra molto tempo, e comunque non spetta a me giudicare se lo deve superare o meno, non voglio entrare nella convenzione delle persone. Dico solo che almeno sarebbe più realistico dire che, siccome bisogna offrirlo il servizio, in ogni presidio ospedaliero ci deve essere un numero minimo di persone che lo praticano, punto. Non si può derogare a questo, che consente di contemperare il diritto all'obiezione dell'articolo 9 col fatto che però il servizio deve essere offerto. Non è che possiamo fare la transumanza sanitaria e discriminare le carriere dei pochi che lo praticano. Questa è la mia opinione. Sono un po' amareggiato dagli insulti ricevuti, ma non vi preoccupate, continuerò comunque. Continuate con la 24, appuntamento come Alessandro Minato domani mattina alle 8:15. Attenti a noi due.